24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Un saluto da Sergio Nava, ben trovati a questo nuovo appuntamento con 24 ore in Europa. Edizione speciale oggi interamente dedicata al nuovo devastante terremoto che ha colpito nelle ultime ore l'Emilia-Romagna e tutto il nord della penisola. L'Unione Europea esprime grande vicinanza e solidarietà all'Italia, mentre gli altri paesi comunitari hanno già inviato offerte di aiuto a Roma. Vi forniremo un riepilogo della cronaca e delle dichiarazioni sul sisma e vi racconteremo come i giornali europei e internazionali hanno raccontato l'accaduto. In apertura alle dichiarazioni del Presidente del Parlamento Europeo Martin Schulz, che ha espresso la solidarietà personale e dell'Europarlamento in queste ore drammatiche per il terribile terremoto che ha scosso di nuovo l'Emilia e il nord dell'Italia. Grande solidarietà e vicinanza al nostro Paese e alle popolazioni colpite è stata espressa anche dall'Unione Europea in occasione della riunione del Consiglio Affari Generali svoltosi a Bruxelles. Lo ha reso noto il Ministro per gli Affari Europei Enzo Moavero. Il Ministro ha ricordato che l'Europa potrà contribuire a far fronte ai danni subiti dal territorio attraverso il Fondo di Solidarietà per le Catastrofi Naturali. Dobbiamo fare di tutto per sostenere la popolazione che sta soffrendo molto e che è figlia di un territorio dove la realtà imprenditoriale è molto forte. Così il vicepresidente della Commissione Antonio Tajani, che ha annunciato di essere al lavoro con il governatore dell'Emilia-Romagna Vasco Errani per preparare la richiesta di aiuti europei. Per Tajani esistono i requisiti per i contributi contro le calamità, come per l'Abruzzo, che finanziano il 2,5% dei danni. E il Partito Popolare Europeo si impegna a verificare che si possa richiedere la mobilitazione del Fondo di Solidarietà Comunitario per le Catastrofi e un intervento di aiuto da parte dell'Europa. Ad affermarlo in una dichiarazione congiunta il capogruppo del PPE al Parlamento Europeo Josef Daul e il presidente dei deputati italiani del PDL Mario Mauro. La Commissione Europea si doti di uno strumento comunitario supplementare, distinto dagli altri esistenti, che consenta di finanziare la ricostruzione del patrimonio culturale in zone colpite da eventi naturali devastanti. A chiederlo in un'interrogazione le europarlamentari Deborah Serracchiani e Francesca Balzani del PD. Sono pervenute offerte da Francia, Grecia, Ungheria e Svizzera sulla base di accordi bilaterali, tuttavia al momento non sono previste richieste di aiuto internazionali. Ad affermarlo il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri Antonio Catricalà nel corso dell'informativa al Senato sul terremoto in Emilia. Il meccanismo comunitario di protezione civile e lo United Nations Disaster Assessment and Coordination hanno espresso la propria disponibilità a inviare squadre di ricerca e soccorso, ha concluso Catricalà. Ora la cronaca. Le nuove scosse di terremoto hanno colpito un'area già martoriata dal sisma della notte tra il 19 e il 20 maggio. Il bilancio provvisorio a fine pomeriggio era di almeno 16 morti, 11 dispersi, 200 feriti trasportati negli ospedali. Il governo intende deliberare il lutto nazionale per lunedì 4 giugno. La prima scossa intorno alle 9 del mattino di magnitudo 5.8, altre di magnitudo superiore a 5 sono state registrate intorno alle 13. Tutte sono state avvertite nell'intero nord Italia. Panico in diversi centri, con gente per le strade, scuole e uffici evacuati. Ma sentiamo ora alcune delle voci dalle zone del sisma. La mia casa e quella sotto di me, più i negozi sono andati tutti giù. E più è andato a finire su un'altra palazzina di fianco e gli ha buttato pure quell'altra giù. Ma quindi lei in questo momento, la casa sua proprio non esiste più? No, non c'è più. Tutti i mobili, tutto, abbiamo perso tutto. E adesso decidiamo di andare giù a Napoli. Ma lei si trovava in casa quando c'è stato il terremoto? No, sì. No, mia moglie, mia figlia e mio figlio stavano su quando ha sentito la prima scossa. E sono scesi giù e il portoncino non si apriva. L'ho dovuto buttare giù a spallate il portoncino. Diciamo che ci è andata bene, però adesso io ho la verità ho paura che succeda ancora più brutto. Paura che delle nuove scosse, non lo so, non mi sentono sicura neanche qua. Cavezzo, sì, beh, il centro è devastato, quindi capannoni caduti, macerie e noi siamo qui, la terra trema ancora, in continuazione. Quindi avete anche, perché in centro ci sono stati tantissimi crolli, avete proprio visto le case cadute? Sì, fumo dalle macerie, cemento cadere, gente che è rimasta sotto, soprattutto nei capannoni, perché la gente stava lavorando e è caduto tutto e la gente è rimasta sotto, quindi non si sa bene chi sia fuori, chi sia dentro. Sì, quello di fianco al mio capannone è crollato giù il tetto, poi quella menù più avanti, anche quello di fianco è crollato il tetto e niente. Quello dove lei lavorava non avevano avuto danni? All'esterno sembra di no, ma all'interno io non capivo niente, ho cercato solo la via d'uscita e basta. A San Felice sul Panaro 3 persone sono morte nel crollo di un capannone, quello dell'azienda Meta, il sindaco Alberto Silvestri. La scossa di stamattina hanno accusato delle vittime e quindi questo è già un dato molto molto triste, molto situazioni che erano già critiche hanno sicuramente subito, però non abbiamo, diciamo così, punto preciso, perché non è possibile, c'è uno stato di agitazione in più. Se abbiamo cercato di soccorrere le situazioni più gravi, cercando di evacuare anche i punti di accoglienza che avevamo prima predisposto, che adesso pur non avendo, diciamo, pur essendo rimasti abbastanza illesi, la gente non vuole più rientrare in strutture in muratura, e quindi stiamo cercando di allestire tendopoli. E le tre vittime dove sono state, sindaco? Sono state in un capannone artigianale del polo industriale, un'azienda metalmeccanica che faceva meccanica di precisione, che era intenta a rimettere, a ripristinare, a mettere in sicurezza la struttura. L'attività era quella di provare a ripartire, ecco, con quello spirito che ci è familiare, che è nostro. Questo è lo spirito che ha contraddistinto quelle persone, e purtroppo ad alcuni di questi è stato fatale. E ora ascoltiamo Filippo Molinari, sindaco di Medol. Noi abbiamo un morto sotto il crollo di un'azienda e tre dispersi, i soccorsi sono ancora attivi, insomma, anche se sono passate parecchie ore, quindi ufficialmente dispersi, ma temiamo il peggio. Poi abbiamo alcuni concittadini, che erano almeno un paio, che erano fuori dal comune a lavorare, anche questi morti, quindi un bilancio in termini di vite abbastanza severo e in termini di danni alle attività produttive disastroso, nel senso che la parte più alta hanno pagate gli edifici produttivi, i capannoni, le aziende, abbiamo avuto crolli dappertutto. Fortunatamente, a parte questo caso di questa azienda biomedicale, senza vittime al momento, se non feriti lievi. I dispersi sono sempre in quella fabbrica, nello sì, stesso capannone dove... I tre dispersi ufficialmente sono ancora lì. I soccorsi continuano, però insomma le gru stanno cercando di sollevare le macerie per capire se riescono a ritrovare queste persone. Da ore, insomma. Mi diceva i gravi danni più gravi a livello di attività produttive, a livello sì, invece di abitazioni la situazione com'è? Abbiamo avuto parecchi crolli degli edifici che erano già stati lesionati dalle scosse della settimana scorsa, si tratta per lo più di edifici civili, di molto vecchi, insomma, fienili, stalle, case di campagna, che devo dire per la maggioranza dei casi erano già stati tutti sfollati nelle settimane scorse, nella scorsa settimana. Un'unica via, che è Via Grande, che è stato l'epicentro della scossa 5.8 di stamattina, lì c'è stato un nucleo abitativo interamente transennato e sfollato, perché proprio l'epicentro era lì, e quindi è crollata una falegnameria, ci sono avuti molti danni nell'abitato prospiciente questa falegnameria. Per il resto, insomma, a livello di abitazioni civili, diciamo, queste scosse hanno dato il colpo di grazia a quegli edifici che erano già ridotti a mal partito dalla precedente scossa. Vi abbiamo riferito prima le parole del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Antonio Catricalà. Sentiamo. Sono stati potenziati i centri operativi per la gestione dell'emergenza con l'attivazione di un altro centro di coordinamento soccorsi a Bologna, che si aggiunge a quelli già attivi. Il capo dipartimento, accompagnato da un team di esperto, ha avviato un sopralluogo nei territori colpiti. Contestualmente, le strutture operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile continuano ad operare nel territorio con un ulteriore potenziamento delle forze. Un totale di 3.698 uomini e di 758 mezzi, più 7 moduli. Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano intanto dice: è certo che sapremo superare questo momento. Un impegno forte di assistenza, di vicinanza e di ricostruzione. E sono certo che si supererà questo momento, naturalmente un pensiero di grande solidarietà a tutti coloro che sono stati coinvolti, talvolta anche nei loro affetti familiari e nei loro beni e nelle loro possibilità di lavoro. E il Premier Mario Monti annuncia presto le deliberazioni del Consiglio dei Ministri. Il Consiglio dei Ministri delibererà i provvedimenti necessari. È chiaro che occorre un momento per valutare le conseguenze e quindi anche l'impegno economico e finanziario dello Stato per la ricostruzione. Tutto quello che occorrerà fare lo faremo. Un nuovo mortale terremoto scuote in Nord Italia. Il sisma che ieri ha colpito l'Emilia-Romagna irrompe come una breaking news sui siti dei principali media europei e internazionali. Un sisma mortale di magnitudo 5.8 scuote il nord del paese, titola la CNN, mentre la britannica BBC mette in evidenza il bilancio provvisorio e ricorda che proprio in quell'area si trova in ritiro la nazionale irlandese in vista di Euro 2012. In Gran Bretagna la notizia del terremoto irrompe su Daily Telegraph, Financial Times e Daily Mail, che aggiornano via via il bilancio delle vittime. In Spagna il paese sottolinea come ancora una volta la regione più colpita sia stata l'Emilia-Romagna, mentre il francese Le Monde titola «Un forte sisma scuote di nuovo l'Italia». Anche in Germania la notizia è ripresa da alcuni tra i principali quotidiani, dalla Süddeutsche Zeitung a Tagesschau, che sottolineano tutti la potenza del sisma. Infine, per lo sport, non si è giocata Italia-Lussemburgo, amichevole prevista ieri sera a Parma. A deciderlo la Federcalcio, d'intesa col Comune, la Prefettura e la Provincia dopo il sisma che ha colpito l'Emilia. Era questa l'ultima notizia, è tutto per il nostro appuntamento con 24 ore in Europa. Un grazie a Fabio Cantadori per l'assistenza in regia. Una buona giornata da Sergio Nava. 24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet.